Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Category is bring it to the runway. Category is stars, statements, and legends. What category are you walking in? Femme queen realness. Femme queen realness is in the house. Ah, so I've snatched before. Any other categories you're coming for? Butch queen realness. Butch queen realness. Well, honey, you might have that one in the bag. Tens across the board. Hold that pose for me. DJ, music. Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta il mondo dal punto di vista degli animali non umani e lavora per una società non violenta. Questa settimana la puntata avrà al suo centro un servizio speciale dedicato alla convivenza fra umani e conigli, grazie a un reportage della nostra Camilla Lattanzi. Parleremo anche dell'orso ancora in fuga in Trentino, di insetti commestibili, di animali, di città. Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, stavolta si occuperà anche della musica. DJ, start the music! Category is... Category is... To the runway, runway, run, run, runway. Bring it to the runway, runway, run, run, runway. Bring it to the runway, runway, run, run, runway. Bring it to the runway, bring it to the runway, bring it to the, bring it to the. Cominciamo la puntata ricordando che al momento di chiudere questa registrazione continua la fuga di M49, l'orso del Trentino sfuggito al recinto nel quale era stato rinchiuso. L'orso è stato ribattezzato in questi giorni in vari modi, Papillon, Libero, Martino, a testimoniare di un sentimento di fratellanza che accomuna molte persone con questo animale braccato diventato oggetto di una contesa politica. La persecuzione è animata dall'ansia, a prima vista più macista che altro, del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nonostante le indicazioni contrarie del ministro per l'ambiente Sergio Costa, che però sembra al momento mantenere una posizione defilata, Fugatti ha emesso una nuova ordinanza, in cui di fatto autorizza l'uccisione dell'orso, in caso, dice il provvedimento, di pericolo. Un'indicazione decisamente generica e che non promette niente di buono. La LAV, Lega Antivivisezione, ha definito l'ordinanza incivile e illegittima e in un messaggio ha chiesto alla squadra di operatori incaricata di dare la caccia all'orso di deporre le armi. Fate obiezione di coscienza, dice la LAV. È tutto apparecchiato per la tragica fine dell'orso, dice ancora la LAV. Un animale che ha come unica colpa quella che la sua natura gli ordina, fare l'orso, causando poche migliaia di euro di danni che la provincia può e deve rifondere. Siamo di fronte, diciamo noi, a una tragedia annunciata e se il peggio accadrà sarà l'ennesimo trionfo della politica di prepotenza e violenza contro chi non può difendersi. Una politica che va molto di moda di questi tempi. Speriamo che stavolta non finisca davvero così e che non siamo costretti di nuovo a provare vergogna per le azioni delle nostre istituzioni. I want to break free. Conigli sono animali vegetariani, molto pacifici e hanno una lunga consuetudine con l'uomo, tanto da comparire nella mitologia dell'antico Egitto come in quella dell'antica Grecia. Purtroppo oggi i conigli sono spesso animali d'allevamento e sono un po' scomparsi dal nostro immaginario, ma si moltiplicano i casi di adozione in famiglia, data la loro attitudine alla socievolezza. Abbiamo esplorato questa convivenza fra umani e conigli a partire da un caso concreto. Ecco il reportage di Camilla Lattanzi. Questa è una storia vera, la storia di una mamma che si chiama Aurora, nome di fantasia, che è separata e vive con i suoi due bambini, Martina e Leonardo. L'ex marito, il papà di Martina e Leonardo, regala ai figli un bellissimo coniglio, tipo ariete, quelli con le orecchie lunghe. Gestire un coniglio in modo corretto però è molto complicato. E Giglio passa la maggior parte del suo tempo in un piccolo terrazzino. Così, dopo averne un po' parlato, i bambini accettano, su invito della mamma, di consegnare Giglio a Luisa, una giovane attivista fiorentina che si occupa di recuperare e ricollocare conigli abbandonati o mal gestiti, cercando buone, anzi ottime, adozioni. Dopo qualche giorno che Giglio è stato consegnato a Luisa, i bambini hanno espresso il desiderio di rivederlo. Così siamo andati tutti insieme a trovarlo a casa di Luisa, per vedere com'è la sua nuova vita, ma anche per ascoltare da Luisa una lezione magistrale su come si gestisce al meglio un coniglio. Innanzitutto, il coniglio, come tutti gli esseri viventi, deve stare libero. Questa è la prima cosa fondamentale, cioè non deve stare in uno spazio stretto come può essere una gabbia, non deve poter vivere solo in uno spazio esterno, che sia anche un giardino non recintato, un terrazzo. Perché? Perché loro soffrono tantissimo innanzitutto la solitudine e poi gli sbalzi di temperatura, perché hanno bisogno di stare a una temperatura fra i 15 e i 25 gradi e non ci deve essere uno sbalzo termico dal troppo caldo al troppo freddo. Questo vale anche, io ho l'aria condizionata ma non la metto mai a una temperatura troppo bassa rispetto a fuori. Hanno delle patologie specifiche, una, la più tipica, è il blocco intestinale, e quindi loro non devono subire questo sbalzo. Poi ovviamente uno spazio esterno è bene che lo abbiano, però devono poter entrare in casa proprio per l'interazione con gli altri membri della famiglia, perché sono animali estremamente socievoli, loro soffrono quando stanno soli, tanto, e magari non lo danno a vedere perché loro non hanno un verso. La seconda cosa è che loro sono erbivori stretti e quindi bisogna imparare che cosa possono mangiare e che cosa non devono assolutamente mangiare. Lui mangerebbe di tutto, ma non glielo diamo ovviamente, perché loro devono avere il fieno illimitato, sempre pulito, devono avere a disposizione, se possibile, erba del giardino, ma anche l'erba gatta, quella per i gatti, su un terrazzo è bene averla a disposizione. Poi la verdura fresca, che non deve essere nemmeno quella fredda di frigo. E poi ci sono dei mangimi specifici che non sono quelli dei negozi, perché contengono le granaglie dentro, e loro non devono assolutamente mangiare né cereali né pane, perché lo mangerebbero. Ci sono i miei vicini di casa che mi buttano i pezzi di pane in giardino e io devo stare attenta che non me li vadano a mangiare. Altra cosa da non fare assolutamente a un coniglio è il bagno, perché i conigli in natura sono prede, quindi sono abituati a non avere odore e si lavano da soli, non hanno odore, anzi la mia coniglietta era profumata, sembrava che avesse il sapone Marsiglia a disposizione per lavarsi, era fantastica, a meno che non abbiano delle patologie come può essere una paralisi, oppure ci sono coniglietti con, non so se li avete mai visti, quelli con l'encefalite, che spesso rimangono con la testa storta e se non riescono a lavarsi, allora a quel punto gli si può fare un lavaggio, però è un lavaggio blando, non è il lavaggio del cane, ecco. Young man. yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy, young man. Tutte queste cose, insomma, te le spiega una persona che è a contatto con i conigli da tanti anni. Di sicuro, se vai dal venditore, lui ti dà il coniglio, la gabbietta, il mangime con i cereali, arrivederci e grazie, e non ti dice né che cosa deve mangiare, né come ti devi comportare, né che necessitano di un veterinario esperto, di visite ai denti, perché poi uno dei motivi per cui si dà il fieno, e io ho fatto una scelta: compro il fieno solo dai contadini. Primo, perché è fieno di prima qualità. Secondo, perché lima i denti ai conigli e quindi gli eviti tante malattie da malocclusione, punte ai denti che possono poi farli smettere di mangiare. E il coniglio che non mangia può morire in 24 ore. Quindi devi correre dal veterinario. Per questo devi conoscere il tuo coniglio. Sì, beh, potete mangiare qualunque cosa, lo sappiamo. Vabbè, io sto bene, che volete? Devi conoscere il tuo coniglio e vedere quando cambia l'atteggiamento. Perché spesso loro, essendo prede, invece di venire lì e dirti «Oh, io sto male», si fermano. Stanno lì fermi, sono apatici. Tu pensi che lui stia dormendo, si stia riposando, e in realtà è un blocco intestinale. Lui non si fa toccare, però non morde, non graffia, non fa niente, prende e va via. E fino a poco tempo fa aveva una compagna che se lo pettinava, se lo baciava, erano innamorati persi. Infatti i conigli devono vivere in coppia, perché loro cambiano proprio atteggiamento. Sono più tranquilli, sono impegnati dalla mattina alla sera a pulirsi, giocano fra di loro, si fanno compagnia. Infatti molti dicono: voglio dare via il mio coniglio perché non ho tempo da dedicargli, basterebbe prendere un compagno. Hanno bisogno della stessa quantità di roba, fondamentalmente una lettiera, perché poi fanno i bisogni in due punti separati. Sono bellissimi, ognuno ha il suo angolino, non sporcano, non fanno niente, si puliscono fra di loro, si fanno compagnia, si fanno coraggio, perché sono super fifoni, voi lo sapete. Invece lui, che aveva una compagna, che è stato l'unico essere vivente che ha accettato nella sua vita, dopo quella io ci ho provato e gli ho proposto conigliette bellissime, dolcissime, non c'è stato verso, perché poi sono passati tanti conigli in questa casa, e lui non ha voluto più nessuna. Ha deciso: io preferisco stare da solo, basta, non vi sopporto. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. Che cosa possiamo dire, quindi, per concludere? Che cosa non bisogna fare? Intanto bisogna non regalare conigli, non comprarli, non andare nei negozi a cercare un coniglio. Allora, intanto non regalate conigli, perché non è come regalare un peluche, voi regalate un essere vivente. Loro non miagolano, non abbaiano, non cinguettano, non fanno un verso, quindi devi essere disposto a capirli, a imparare il loro linguaggio. Poi non li tenete chiusi in gabbia e non li comprate per una questione: intanto ce ne sono tantissimi che cercano casa, non facciamo in tempo a trovare casa a uno, che ci sono 50 conigli che cercano di nuovo uno stallo o un buco dove stare. E poi rivolgetevi alle persone che vi possano insegnare a gestirli, dove magari andare a comprare anche il cibo adatto a loro, e che vi insegni come si allestisce uno spazio adatto a loro. A dimensione di coniglio. Grazie Luisa, e grazie soprattutto per quello che fai per gli amici conigli. Grazie a te. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. Come lo trovate, Giglio? Bene. Come ti sembra? Che stia bene, cioè,

le più che fondate preoccupazioni per l'emergenza climatica stanno spingendo, in realtà non abbastanza, a riconsiderare le attuali produzioni di cibo e il loro costo in termini di esaurimento delle risorse naturali e di distruzione degli ecosistemi. L'alimentazione su base vegetale è ormai considerata la più indicata, per quanto sia lontana dall'essere scelta dalla maggioranza delle persone, ancorate alle proprie abitudini e pilotate dall'industria dell'alimentazione. Fra i tentativi in corso di cambiare le consuetudini alimentari, dobbiamo segnalare con tutte le nostre perplessità l'opzione insetti. È stato avviato in Italia il primo allevamento sperimentale di Orthoptero acetas domesticus, in sostanza il grillo, in base a un progetto delle Università di Torino e Venezia e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Venezia. Questi grilli dovrebbero in futuro entrare nella dieta degli italiani come fonte proteica a basso impatto ambientale. Riuscire in questo intento sarà uno sforzo non da poco, vista l'avversione culturale rispetto al mangiare insetti, per quanto la FAO faccia notare che circa 2 miliardi di persone sul pianeta già li hanno integrati nelle proprie abitudini di consumo. È difficile dire oggi se davvero questi insetti commestibili arriveranno sulle tavole degli italiani, sotto forma prevalentemente di farine trasformate, ma è certo che parrebbe più sensato investire invece risorse e intelligenze nel favorire un'alimentazione su base vegetale, alla quale siamo ben più abituati. È lo stesso sforzo che nel nostro piccolo conduciamo ogni settimana grazie allo spazio di attivismo gastronomico curato da Gabriele Palloni, chef toscano, autore del libro La cucina regionale italiana, vegana, pubblicato da Newton Compton. Sentiamo qual è la ricetta della settimana. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Il salmì è un metodo che solitamente si utilizza in cucina per la preparazione di selvaggina e in particolare della lepre, ma anche del coniglio. La tecnica e il risultato è molto interessante, ma ovviamente non condividiamo la sua applicazione. E quindi cosa c'è di meglio che riscattare il buono in favore della vita? Per questo rendiamo cruelty free il salmì. Gli ingredienti per 4 persone per i bocconcini di frumento in salmì sono: per i bocconcini 1 kg di farina di frumento e 500 ml di acqua calda e un pizzico di sale. Per la salsa una cipolla, una costa di sedano, una carota, dell'alloro, rosmarino e salvia, delle bacche di ginepro, chiodi di garofano, olio extravergine di oliva, un cucchiaio di aceto balsamico e 1,5 litri di vino rosso. Fiesta, che fantastica, fantastica esta fiesta. Que fantastica, fantastica esta fiesta. Esta fiesta è la che descubrì suo amor. Iniziate preparando i bocconcini di frumento. Impastate la farina con 0,5 litri di acqua calda ed un pizzico di sale. Lavorate bene fino ad ottenere una pasta compatta ed omogenea. Lasciate riposare l'impasto in un recipiente capiente, ricoprendo di acqua fresca per un paio di ore. Trascorso il tempo necessario, iniziate ad impastare lasciandola dentro l'acqua, che assumerà ben presto un colore bianco. Scolate l'acqua filtrando con un colino per recuperare eventuali pezzetti di glutine che potrebbero staccarsi. Continuate a risciacquare la pasta impastando sotto l'acqua corrente, alternando acqua calda e acqua fredda. Lentamente vedrete che l'acqua di risciacquo sarà sempre più limpida. A questo punto il lavaggio è terminato. Impastate la massa di glutine dando una forma cilindrica. Avvolgetela in un panno non trattato e legate con dello spago da cucina. Immergete in una pentola con acqua bollente e lasciate cuocere per 30 minuti. A questo punto liberate dal panno e fate finire di cuocere in un brodo vegetale arricchito da erbe aromatiche. Lasciate cuocere per altri 30 minuti. Una volta cotto lasciate raffreddare completamente nel suo brodo di cottura. A questo punto tagliate a cubetti realizzando dei bocconcini che lascerete immersi nella seguente marinatura. In un recipiente di vetro sistemate i bocconcini, coprite con 1,5 litri di vino rosso, unite il sedano, la carota e la cipolla tagliate a pezzi grossi, aggiungete le erbe aromatiche, le bacche di ginepro e i chiodi di garofano. Coprite il recipiente con della pellicola e lasciate marinare per tutta una notte in un luogo fresco. Il giorno successivo scolate i bocconcini e le verdure dal vino che conserverete. Tritate le verdure e gli aromi e fate soffriggere con olio extravergine. Unite i bocconcini, fate rosolare per qualche minuto aggiustando di sale e pepe. Aggiungete il cacao amaro, quindi portate a cottura a fuoco vivo bagnando col vino di marinatura, fino a consumarlo tutto. Servite i bocconcini immersi nell'intingolo e se lo gradite aggiungete delle gocce di aceto balsamico. Potete accompagnare il vostro salmì con un cucchiaio di polenta di grano saraceno. Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta, e sta fiesta la che descubri suo amor. Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta, e sta fiesta la che descubri suo amor. Chiudiamo segnalando una notizia sviluppata nei giorni scorsi da un articolo di Antonello Guerrera sul quotidiano La Repubblica. La città di Londra è la prima al mondo a ottenere il titolo di Parco Nazionale Cittadino dalla National Park City Foundation. Londra, con i suoi grandi spazi verdi, è equiparata in qualche modo ai più famosi parchi del mondo, in virtù di due fattori. Il primo è l'estensione e il numero di parchi e giardini urbani. Si calcola che circa il 47% della superficie di Londra sia coperta da parchi, riserve, giardini pubblici e privati. Il secondo fattore è più generale ed è il fatto che le città costituiscono l'habitat più in espansione oggi nel mondo. A Londra vivono oltre 13.000 specie animali. Si va dagli scoiattoli ai cervi, dalle volpe ai daini, senza dimenticare i rettili e un'enorme varietà di uccelli. Il servizio di Repubblica è corredato da una curiosissima foto. Si vede una volpe che passeggia indisturbata davanti all'ingresso dell'abitazione del primo ministro britannico al numero 10 di Downing Street. Un'immagine che testimonia come la convivenza fra l'asfalto e i palazzi e un numero che dovrà crescere di alberi e spazi verde, quindi la convivenza fra umani e non umani, è la sfida che le città in tutto il mondo sono chiamate ad affrontare. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, dopo aver ricevuto il riconoscimento di Parco Nazionale Cittadino, ha annunciato un contratto fra cittadini e comune per un maggiore impegno a proteggere l'habitat naturale della città. What are you looking at? Per questa puntata è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con la nuova puntata di Restiamo Animali sarà fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.